Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. La natura di Wertheimer era completamente agli antipodi rispetto a quella di Glenn, pensai. Wertheimer possedeva una cosiddetta concezione dell'arte, Glenn Gould non ne aveva bisogno. Mentre Wertheimer poneva quesiti in continuazione, Glenn di quesiti non ne poneva affatto. Io non l'ho mai sentito porre un quesito, pensai. Wertheimer aveva sempre paura che le forze non gli bastassero. Glenn non immaginava neppure che qualcosa potesse essere superiore alle sue forze. Wertheimer, inoltre, si scusava tutti i momenti per qualche cosa, anche in assenza di qualsiasi motivo per presentare le sue scuse. Glenn, invece, non conosceva neppure il concetto di scusa. Glenn non si è mai scusato con nessuno, benché per la nostra mentalità di motivi per scusarsi ne avesse in continuazione. Per Wertheimer era sempre molto importante sapere che cosa la gente pensasse di lui. Glenn invece non attribuiva a tutto questo il minimo valore. E io son sempre stato come lui. A me, come a Glenn, non è mai importato niente ciò che pensa di me il cosiddetto mondo che ci circonda. Wertheimer parlava anche quando non aveva niente da dire, solo perché tacere era per lui diventato rischioso. Glenn era capace di tacere per moltissimo tempo, come del resto anch'io, che al pari di Glenn sono capace di tacere quantomeno per giorni interi, anche se non come lui per intere settimane. Solamente il timore di non essere preso sul serio rendeva loquace il nostro soccombente, pensai. Ed è probabile che la sua loquacità dipendesse anche dal fatto che già allora, a Vienna come a Traich, egli si sentiva per lo più completamente abbandonato a se stesso. Non faceva che camminare su e giù per Vienna e, come sempre diceva, con sua sorella non parlava mai di niente, giacché in effetti tra lui e la sorella un vero discorso non c'era mai stato. Di tutte le faccende riguardanti il patrimonio si occupavano quegli sfrontati dei suoi legali, come lui li definiva, con i quali non comunicava mai se non per iscritto. Va detto dunque che anche Wertheimer era un uomo capacissimo di tacere ed è anzi probabile che fosse in grado di stare in silenzio più a lungo di Glenn e di me, ma che in nostra compagnia si sentisse costretto a parlare, pensai. Proprio lui, che era di casa ai più begli indirizzi del centro della città, amava soprattutto andare a piedi fino a Floridsdorf, il quartiere operaio famoso per la sua fabbrica di locomotive, o fino a Kagran o a Kaisermühlen, dove sono di casa i più poveri tra i poveri, o camminare sul cosiddetto Alsergrund, o addirittura fino a Ottakring. Una vera perversione, pensai. Per evitare che gli altri si accorgessero di queste sue lunghe esplorazioni, usciva dalla porta di servizio poveramente vestito in tuta da operaio, pensai. In piedi per ore e ore sul ponte di Floridsdorf, guardava i passanti e fissava l'acqua melmosa del Danubio, da tempo rovinata dalle sostanze chimiche, su cui procedevano lente verso il mare le navi da carico russe e jugoslave. Su quel ponte aveva spesso pensato se la sua più grande sventura non fosse per caso quella di esser nato in una famiglia ricca, pensai. Infatti diceva sempre di sentirsi meglio a Floridsdorf e a Kagran, che non nel primo distretto di Vienna, di star meglio tra gli abitanti di Floridsdorf e di Kagran, che non tra quelli del primo distretto, i quali in realtà gli erano sempre stati odiosi. Le trattorie se le sceglieva nella Pragerstrasse e nella Brünnerstrasse, dove ordinava birra e salsicce, stava seduto per ore ad ascoltare e osservare la gente, fino a quando, per così dire, gli mancava il fiato, e allora doveva uscire, andarsene a casa, naturalmente a piedi, pensai. Comunque diceva molto spesso che non bisognava credere che lui sarebbe stato più felice se fosse vissuto a Floridsdorf, a Kagran o nell'Alsergrund, pensai, e che parimenti sarebbe stato un errore supporre che questa gente, rispetto agli abitanti del primo distretto, avesse almeno il vantaggio di un carattere migliore. A un'analisi più attenta, così lui, i cosiddetti svantaggiati, i cosiddetti poveri, i cosiddetti diseredati si rivelano per la loro propria natura senza carattere e disgustosi come gli altri e sono da respingere esattamente come gli altri ai quali noi apparteniamo e che per quest'unica ragione ci appaiono disgustosi. Gli strati più bassi della popolazione rappresentano esattamente come gli strati più alti un vero e proprio piccolo pubblico, diceva Wertheimer. Si comportano in maniera altrettanto schifosa e sono da respingere esattamente come gli altri. Pur essendo diversi, fanno schifo esattamente nella stessa maniera. Così diceva, pensai. Il cosiddetto intellettuale ha in odio il suo stesso cosiddetto intellettualismo ed è convinto di trovare la propria salvezza presso i cosiddetti poveri e svantaggiati, quelli che in passato venivano chiamati umiliati e offesi, diceva, ma da loro, anziché la propria salvezza, egli trova le schifezze che già conosce, così diceva, pensai. Dopo essere stati 20 o 30 volte a Floridsdorf o a Kagran, diceva spesso Wertheimer, mi sono reso conto di questo mio errore e ho preferito star seduto al Bristol e prendere di mira qualcuno dei miei simili. Noi proviamo continuamente a sgusciar via da noi stessi, ma questo tentativo fallisce regolarmente e in questo tentativo seguitiamo a incaponirci perché non vogliamo ammettere che a noi stessi non scamperemo mai se non con la morte. Adesso è scampato a se stesso, pensai, in maniera più o meno ripugnante. Farla finita a 50 anni, a 51 al massimo, ha detto una volta. Alla fine, pensai, si è preso sul serio. Noi guardiamo con attenzione un nostro compagno di studi mentre percorre in tutta la sua lunghezza il corridoio dell'istituto, pensai. Poi gli rivolgiamo la parola e con ciò abbiamo gettato le basi per quella che viene chiamata un'amicizia per la vita. Al principio, come ovvio, non sappiamo che si tratta di una cosiddetta amicizia per la vita. All'inizio la riteniamo soltanto un'amicizia utile che al momento ci conviene coltivare per poter tirare avanti. Eppure la persona a cui ci siamo rivolti non era una persona qualsiasi, ma l'unica persona possibile in quel momento, perché io stesso ho avuto in effetti la possibilità di apostrofare centinaia di giovani che avevano come me studiato al Mozarteum, molti dei quali frequentavano a quell'epoca anche il corso di Horowitz. Eppure ho rivolto la parola proprio a Wertheimer, dicendogli che a Vienna ci eravamo già visti e parlati una volta, pensai, ciò che lui pure rammentava. Wertheimer, infatti, ha studiato principalmente a Vienna, non ha studiato come me al Mozarteum, ma alla Wiener Akademie, che vista dal Mozarteum è sempre stata considerata il migliore dei conservatori di musica esistenti, come a sua volta il Mozarteum, pensai, è sempre stato considerato dai viennesi il più valido fra tutti gli istituti superiori di musica. Quelli che studiano presso un certo istituto tendono sempre a non riconoscere i reali meriti di questo loro istituto e strizzano l'occhio all'istituto concorrente. Soprattutto gli studenti di musica sono noti per sopravvalutare moltissimo l'istituto che si pone in diretta concorrenza con il loro e in particolare gli studenti di musica di Vienna hanno sempre pensato o creduto che il Mozarteum fosse meglio della Wiener Akademie. E così, viceversa, gli studenti del Mozarteum hanno sempre pensato che non esista conservatorio migliore della Wiener Akademie. In verità, quanto a bravura o non bravura degli insegnanti, la Wiener Akademie e il Mozarteum sono sempre stati pari. Lo sono stati in passato e seguitano ad esserlo ancora oggi, pensai. Sta soltanto agli allievi saper sfruttare con la massima spietatezza questi maestri in vista dei propri scopi. Il problema non è affatto la qualità dei nostri maestri, pensai. Il problema siamo noi, perché è accaduto molto spesso che dei cattivi maestri producessero dei geni, come anche viceversa, che dei buoni maestri annientassero dei geni, pensai. Horowitz aveva un'ottima fama e noi, pensai, eravamo stati conquistati da quest'ottima fama. Di Glenn Gould invece non sapevamo nulla, non avevamo idea del grande significato che avrebbe avuto per noi. Glenn Gould era un allievo come tutti gli altri, all'inizio era solo un tipo con qualche strana fisima, ma alla fine si è rivelato come il più grande talento che sia esistito in questo secolo, pensai. Aver frequentato il corso di Horowitz non è stato per me altrettanto catastrofico come per Wertheimer. Wertheimer era un uomo troppo debole per sopportare la presenza di Glenn. E visto che era fatto così, egli è entrato nella trappola mortale della sua vita il giorno in cui si è iscritto al corso di Horowitz, pensai. La trappola è scattata il giorno in cui egli ha sentito suonare Glenn per la prima volta, pensai. Wertheimer non si è mai più liberato da questa trappola mortale. Wertheimer doveva restare a Vienna e seguitare i suoi studi presso la Wiener Akademie, pensai. È la parola Horowitz che lo ha annientato, pensai. Indirettamente il concetto Horowitz, anche se in effetti lo ha annientato Glenn. Arrivato in America, avevo detto a Glenn che era stato lui ad annientare Wertheimer. Ma Glenn non comprese affatto ciò che io gli stavo dicendo, né da quel momento in poi l'ho più importunato con questa idea. Solo di malavoglia Wertheimer era venuto in America con me e durante quel viaggio mi aveva fatto capire a più riprese che in fondo detestava quegli artisti che, come Glenn, hanno spinto troppo innanzi la propria artisticità. Sto citando Wertheimer alla lettera. Quegli artisti che hanno annientato la propria personalità per essere dei geni, così Wertheimer si esprimeva a quell'epoca. Wertheimer sosteneva che le persone come Glenn si trasformano alla fin fine in macchine artistiche che non hanno più niente in comune con un essere umano al quale ormai assomigliano di rado, pensai. Wertheimer invidiava Glenn, ma soprattutto questa sua artisticità. Di essa non era in grado di stupirsi senza invidiarla, e non dico che dovesse ammirarla. L'ammirazione è infatti qualcosa per la quale sono sempre mancate e mancano tuttora anche a me le necessarie premesse. Non c'è mai stato nulla che io abbia ammirato, eppure in vita mia mi sono stupito di moltissime cose, e più di tutti, questo posso dirlo, nella mia vita che merita forse di essere definita una vita d'artista, mi sono stupito di Glenn. Ho osservato con stupore il suo sviluppo. Ogni volta che lo incontravo ero stupito e ho accolto con stupore quelle che sono state chiamate le sue interpretazioni, pensai. Io ho sempre avuto la possibilità di dare libero corso al mio stupore, di non permettere a niente e a nessuno di circoscrivere o limitare il mio stupore, pensai. Questa capacità Wertheimer non l'ha mai avuta sotto nessun riguardo, pensai. Inoltre, a differenza di Wertheimer, che assai volentieri sarebbe stato Glenn Gould, che avrebbe voluto essere Glenn Gould, io ho sempre voluto essere soltanto me stesso. Wertheimer, invece, è sempre stato uno di quelli che continuamente e per tutta la vita, e riducendosi in uno stato di perenne disperazione, vogliono essere qualcun altro, qualcuno che devono credere per forza più favorito dalla sorte di loro, pensai. Wertheimer sarebbe stato volentieri Glenn Gould, sarebbe stato volentieri Horowitz e non è escluso che sarebbe stato volentieri anche Gustav Mahler o Alban Berg. Wertheimer non era capace di vedere se stesso come un essere unico al mondo, mentre in effetti è così che ciascuno di noi può e deve concedersi di vedere se stesso, se non vuol cadere in balia della disperazione. Ogni essere umano, comunque sia fatto, è un essere unico al mondo. Io stesso me lo dico di continuo, e con questo son salvo. Quest'ancora di salvezza che consiste nel considerarsi come qualcosa di unica al mondo, Wertheimer non l'ha mai presa in seria considerazione. Gli mancavano a tal fine tutte le necessarie premesse. Ogni essere umano è un essere umano unico al mondo e, in effetti, dal suo punto di vista, la più grande opera d'arte di tutti i tempi, questo l'ho sempre pensato e potuto pensare, pensai. Wertheimer, invece, non aveva questa possibilità. Perciò voleva sempre essere soltanto Glenn Gould o appunto Gustav Mahler o Mozart e compagni, pensai. Fu questo che assai per tempo lo precipitò in quella infelicità nella quale ricadde poi di continuo. Non necessariamente dobbiamo essere dei geni per poter essere e per poterci riconoscere come esseri unici al mondo, pensai. Wertheimer è stato sempre un emulatore. Ha emulato tutti quelli che riteneva più dotati di lui e benché non ne avesse le premesse, come ora mi rendo conto, pensai, ha voluto a tutti i costi diventare un artista e così si è cacciato nella catastrofe. Da ciò derivava anche la sua irrequietezza, il suo continuo e incessante camminare o correre, la sua incapacità di starsene tranquillo, pensai. E la propria infelicità la scaricò sulla sorella, quella sorella che tormentò per decenni, pensai, e serrò nella sua mente, così pensai, per non lasciarla mai più venire fuori. Alle cosiddette esibizioni serali, cui gli studenti del Mozarteum sono tenuti a prender parte per abituarsi all'attività concertistica, esibizioni che allora si svolgevano tutte nella cosiddetta sala viennese, una volta Wertheimer ed io ci presentammo insieme, come si suol dire, con Brahms a quattro mani. Nel corso di tutto il concerto, Wertheimer aveva voluto primeggiare, rovinando quel concerto dal principio alla fine. Lo aveva rovinato del tutto consapevolmente, di questo mi rendo conto oggi. Dopo il concerto disse soltanto scusami, una parola sola, il che per lui è indicativo. Di suonare insieme ad un altro non era capace. Aveva voluto, come si suol dire, brillare a tutti i costi e siccome naturalmente la cosa non gli è riuscita, ha rovinato il concerto, pensai. In tutta la sua vita Wertheimer ha sempre e soltanto voluto primeggiare, ma non gli è mai riuscito di primeggiare sotto nessun aspetto e in nessuna circostanza. Ed è proprio per questo che si è dovuto togliere la vita, pensai. Glenn non sarebbe mai stato costretto a togliersi la vita, pensai. Glenn, infatti, non si è mai sforzato di primeggiare perché sempre e dovunque e in ogni circostanza è risultato il primo. Wertheimer voleva arrivare sempre più in alto benché non ne avesse le premesse, pensai, mentre Glenn aveva tutte le premesse per arrivare ovunque. Quanto a me, benché in questo campo non mi ritenga della partita, posso dire che mi è capitato molte volte di avere tutte le premesse per fare le cose più svariate, ma per lo più del tutto consapevolmente ho preferito non sfruttare queste premesse per indolenza o arroganza o tedio o pigrizia. Wertheimer, invece, per tutto ciò che ha affrontato, non ha mai avuto le necessarie premesse, non le ha mai avute per niente di niente, come si suol dire. Per una cosa soltanto ha sempre avuto tutte le premesse, per essere un uomo infelice. Quindi non c'è proprio da meravigliarsi che lui, Wertheimer, si sia tolto la vita e non Glenn o io, benché Wertheimer avesse continuamente preconizzato il mio suicidio, come del resto moltissimi altri che continuamente mi fanno capire come essi sappiano che io mi toglierò la vita. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.